Radio 24 Reportage. 100 anni di Titanic, il naufragio che sconvolse il mondo, di Marta Cagnola. Una vicenda che 100 anni fa colpì, sconvolse il mondo. Una vicenda che 100 anni dopo commuove e appassiona, il Titanic. Una storia globale nata nell'Europa del 1912 che noi ripercorriamo da Londra, ricordandoci di tutta l'umanità protagonista di quel disastro, come ci spiega lo storico Tim Maltin, autore del libro e del documentario 101 cose che non sai sul Titanic. Quella del Titanic è una storia globale. Ha colpito la Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord e del Sud, certo. Ma c'erano anche tanti europei e persino persone che venivano dall'Africa, dalla Russia e molti dai paesi nordici. Il Titanic era come un'arca di Noè che rappresentava tutta l'umanità. Ma ora quel che resta di quest'arca di Noè, il relitto del Titanic, è in pericolo. La gente è da sempre affascinata dall'idea di immergersi e recuperare oggetti perduti. E la minaccia è reale. Ho sentito dire che c'è chi è disposto a pagare oltre 10.000 euro per un oggetto recuperato dal relitto. Se hai le prove che provenga dal Titanic, sei tu a stabilire il prezzo. Per Bob Ballard, il mercato nero degli oggetti del Titanic è uno scenario da incubo. Bob Ballard è l'oceanografo che scoprì il relitto del Titanic nel 1985 e che ora si batte, come racconta nel suo documentario Titanic, l'ultima verità di Ballard, per proteggere ciò che resta della nave. Se tu entrassi nella Cappella Sistina, nessuno vorrebbe che tu toccassi i dipinti. I visitatori possono danneggiare il relitto. Non credo che lo facciano di proposito, ma vi ricordate quando un uomo ha colpito con un martello la Pietà di Michelangelo? Ora è protetta, ma prima era possibile colpire una statua di Michelangelo. Non c'è nessuno a fare la guardia al Titanic. È come se si lasciassero aperte le porte della Cappella Sistina e di notte chiunque potesse entrare e fare quello che vuole. Così penso che sia importante sapere che il relitto è in pericolo perché è stato danneggiato dai visitatori. La tecnologia sta rendendo sempre più facile scendere negli abissi per vedere il Titanic. Io spero che il mondo sostenga l'idea di un trattato da sottoporre alle Nazioni Unite e speriamo che l'Italia lo sostenga. Siate molto attenti all'antichità delle vostre coste. E credo che sarete sensibili anche a questo tema. Se non sappiamo proteggere il Titanic, non siamo in grado di proteggere l'eredità del passato. Come dicevamo, era il 1985 quando Ballard scoprì il Titanic. Cos'è? La caldaia! La caldaia per me era la prova definitiva che avevamo trovato il Titanic. Allora avrebbe potuto dichiarare il relitto come suo, ma non lo fece. Ironicamente, una nave da guerra, come nel caso della Bismarck, è protetta. È protetta per sempre dal suo paese. Invece navi come il Titanic, perse in mare aperto, sono considerate relitti abbandonati. It's called an abandoned shipwreck. E così quando la trovai andai in tribunale dicendo: ho trovato il Titanic, posso reclamarne la proprietà? E loro: certo, lei deve solo fare una cosa, deve tornare e prelevare un oggetto, un qualsiasi oggetto, una tazza con scritto White Star Line e noi certificheremo che lei è il proprietario. E poi dovrà spostarla dal fondo dell'oceano e portarla via. Ma io non voglio portarla via da dov'è, dissi. E allora non può diventarne proprietario. Ma è folle, risposi. E loro: ma questa è la legge. Mentre si batte per salvare ciò che resta del Titanic, Bob Ballard non smette di andare alla ricerca dell'umanità che aveva fatto la sua storia. Per rintracciare queste persone, Ballard si affida ad una rete internazionale di ricercatori. Incluso un appassionato del Titanic che non colleziona oggetti, bensì passeggeri. Gowan possiede informazioni sugli uomini incaricati di assicurarsi che il viaggio inaugurale del Titanic andasse liscio come l'olio. Era il gruppo di garanzia. In quel gruppo c'era un capo elettricista, macchinisti, idraulici e progettisti. Controllavano che tutto quello che avevano assemblato rispecchiasse il progetto. Arrivare al cuore della tragedia del Titanic significa trovare gli uomini che rischiarono tutto per salvare la più grande creazione di Belfast. Gli uomini del gruppo di garanzia, per Ballard, degli eroi sconosciuti. We're trying to make them known. And for 100 years, the people of Belfast. Cerchiamo di farli conoscere. Per 100 anni la gente a Belfast si imbarazzava, non voleva parlare del Titanic. Ci è voluto il tempo, perché solo il tempo può guarire le ferite. E ora hanno voluto parlare. E hanno voluto parlare solo con me, perché sono colui che ha trovato il relitto. Only, you know, because I found it, they would talk to me. Uomini che morirono in quella strana notte del naufragio, una notte serena. Il Titanic e le altre navi della White Star Line sono fiere di disporre di un equipaggio scrupoloso, comprese le vedette. Con una buona visibilità, devono avvistare un iceberg all'orizzonte a occhio nudo. Ciò significa con un preavviso di almeno 20 minuti. Qualunque cosa ci sia là fuori, il capitano lo saprà in tempo. Tre colpi secchi alla campana era il segnale che indicava un oggetto davanti alla nave. Eppure una nebbia oscurò l'iceberg contro cui il Titanic si scontrò. Ma perché? Come in una notte serena? Un miraggio, secondo lo storico Tim Maltin. La Marengo vide l'incidente proprio mentre accadeva, ma non era abbastanza vicina per essere subito d'aiuto. E notò anche una rifrazione anomala all'orizzonte. La Deutschland riferì di un Luftspiegelung, che è la traduzione tedesca di miraggio. Anche la Niagara raccontò di un orizzonte sereno con miraggi. La nave era costruita secondo standard modernissimi, ma non fu possibile evitare il disastro né salvare tutti, perché le scialuppe non erano sufficienti. Nel 1912 l'ufficio del commercio voleva che fossero costruite navi a tenuta stagna e che diventassero scialuppe di salvataggio esse stesse. In pratica, ti permettevano di avere un numero inferiore di scialuppe a bordo, bastava che la nave fosse adeguatamente attrezzata. Pensavano che il modo migliore per salvare delle vite consistesse nell'evitare che le navi affondassero, non nell'avere navi meno affidabili con molte scialuppe. Nell'arco di un'ora e mezza, 18 scialuppe di salvataggio e zattere vengono calate dal Titanic e caricate con appena 700 delle oltre 2.000 persone tra passeggeri ed equipaggio. Ma in un'eventualità del genere, sostiene Maltin, nemmeno la tecnologia di oggi potrebbe fare alcunché. Modern technology does not combat mirages. Le moderne tecnologie non combattono i miraggi, perché i miraggi confondono i radar. La verità è che i miraggi rappresentano sempre un pericolo per la navigazione, soprattutto di notte e soprattutto se del tutto inattesi. E il pensiero, inevitabilmente, va alla Costa Concordia. Sono stato scioccato dal disastro della Costa Concordia. Una tragedia che ha dimostrato come, tutto sommato, le misure di sicurezza a bordo del Titanic non erano molto differenti da quelle odierne. In altre parole, le navi moderne come la Concordia non sono più sicure del Titanic dal punto di vista della costruzione. In termini di costruzione, quindi, non abbiamo imparato nulla dal 1912. However, a big difference with the Titanic is... Una grande differenza con il Titanic è stato però il comportamento del comandante. Il capitano Smith è rimasto in uniforme e sul ponte fino a che il ponte stesso non è stato sommerso dall'acqua. Con grande calma spingeva i suoi uomini a sgomberare la nave di donne e bambini. E quando non ci fu più speranza, disse tranquillamente: "Look after yourselves. It's every man for himself now." And then eventually, ognuno per sé. Si salvi chi può. E forse morì trascinato via da un'onda. But I would give one word of caution about condemning the captain. Eppure sarei molto cauto nel condannare il comportamento del capitano della Costa Concordia. Sicuramente scopriremo dall'inchiesta sul disastro cose che ora non sappiamo e vorrei riservare il mio giudizio finale quando conosceremo tutti i fatti. Grande rispetto per il mare e per i marinai e, come dice Bob Ballard, anche molto affetto, perché le navi sono come delle signore. Well, I'm a sailor. And ships are ladies. Sono un marinaio e le navi per noi sono signore. Ora, rispetto a quando ho iniziato io sulle navi, ci sono molte più donne di prima, mia figlia compresa, ma continuo a pensare alle navi come a signore. Even though we have lots and lots of women, and e poi il Titanic era bellissimo. Gli uomini di solito non sono belli. Men don't tend to be beautiful. I documentari di Tim Maltin e Bob Ballard andranno in onda questo fine settimana su National Geographic Channel, canale 403 di Sky. Titanic, l'ultima verità di Ballard, domani alle 20.55, 101 cose che non sai sul Titanic, lunedì alla stessa ora. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.